odigo nyoso nenu wa odigo nyoso eh odigi chaso nenu wa odigo nyoso nani Jesus niru nani Jesus nazu nani age buru pam ni ne odigo nyoso eh odigo nyoso. There is power mighty in the blood. in the blood. Key. Hey, prayer is the master key. Master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Oh, prayer is the master key. Master key. Jesus carry us. Ike di no urumiri. Ike di kwane nuala. Ike juru nuanine. Maha Jesus carry us. Jehovah Buahagi, Igane Nuanine, Jehovah Buahaya. Zaputa Jesu anihine Ala boya Jesus Chime Ala boya Odo wakataka e Zaputa Jesu anihine Kenerem chimo Imani kenerem chimo Na chime mena Kenerem chimo Everybody kenerem chimo na chime mena Kenerem chimo Idin dunenu wata Biko kenerem chimo na chime mena Ibo kenerem chimo Umuibo kenerem chimo na chime mena o Qui per nana e usuna buane qui per nana a cane e con lei per nala e voglio ne yendo ne qui per nana e cina come i buone qui per nala e Mwane kwibe na inana e Asim Jehovah mo nidima e Jireke limpopo nidima e Chigosiri mo niyotoku nidima e